Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Vi ricordo la mail unabusoalgiorno@radio24.it. Vi ricordo anche il mio blog sull'home page del Sole 24 Ore. Guardie o ladri? Allora, ricorderete che alcuni giorni fa abbiamo parlato di giochi online. Torniamo a farlo preoccupandoci di approfondire un aspetto diverso, vale a dire quello della privacy, della riservatezza nel momento in cui si decide di accedere ad uno dei siti che consentono e permettono appunto di giocare online. Lo facciamo grazie ad una lettera molto dettagliata che ci è giunta da un nostro radioascoltatore di Rocca di Papa, splendido paese in provincia di Roma, e abbiamo con noi il radioascoltatore. Buongiorno Iafrate. Buongiorno. Allora, Fabio Iafrate, dico anche il nome per completezza. E abbiamo con noi il responsabile delle attività online di Lottomatica, che è appunto la società che viene chiamata in causa dal nostro radioascoltatore, il dottor Gianluca Bellocci. Buongiorno Bellocci. Buongiorno. Chi non conosce Lottomatica, voglio dire, non fosse altro che per la martellante campagna pubblicitaria che fa da anni sulle reti televisive, soprattutto televisive italiane. Allora, partiamo da lei, Iafrate, perché che cosa le è successo? Le è successo che, io anticipo soltanto quanto basta, che è entrato dentro il sito di Lottomatica, voleva aprire un conto, anzi credo lo abbia aperto, ora ce lo dirà lei, l'ho aperto per poter giocare, ma lì poi è iniziata una sarabanda abbastanza complessa per quanto riguarda la volontà di tutelare la sua riservatezza. Lo racconti lei, Frate? Sì, allora, nel dettaglio, io verso la metà di agosto avevo intenzione di registrarmi al sito, quindi ho fatto, diciamo, tutta la procedura prevista dal sito per la registrazione, dove c'erano le caselle dati promozione e privacy, quindi diciamo così i consensi per il trattamento dei dati personali. Sulle caselle ci sono due voci, una diciamo generica, dichiaro di aver letto le condizioni sul trattamento dei dati personali, ok, e l'ho spuntata. La seconda, abbastanza generica, che dice: acconsenta al trattamento e comunicazione dei dati personali per ricevere informazioni su promozioni, eccetera, eccetera. Va bene. Io ho spuntato questa seconda casella proprio perché non dice molto su quello che è il trattamento successivo. Non entra molto nel privato della vita di una persona, diciamo, insomma. No, dice, è generica, nel senso, esatto, che io ce l'ho davanti, la leggo, dice acconsenso al trattamento e comunicazione dei dati personali per ricevere informazioni. Vabbè, benissimo, okay. Esatto. Io l'ho spuntata. Dopodiché, tutto il percorso prevede poi di firmare un contratto, spedirlo, quindi il contratto è scaricabile da internet, si può spedire si deve spedire all'Lottomatica, altrimenti giustamente l'Lottomatica, in mancanza, certo, di questo, interrompe certo, il rapporto. La cosa che mi ha lasciato estremamente perplesso è che nel momento in cui sono andato a scaricare il contratto per firmarlo, nel contratto, sulla parte trattamento dati personali, c'è il consenso all'invio, sostanzialmente la faccio breve, in tutte le maniere possibili e immaginabili, quindi per posta, per fax, per telefono, anche con chiamate automatiche per telefono, tutte le maniere, al consenso ad essere disturbato, tra virgolette, in tutte le maniere possibili e immaginabili. Insomma, ad essere perseguitato dall'Lottomatica, via. Spero di no, però insomma, ecco, la possibilità ce l'avrebbe. Ecco, no, ma io lo dico in termini paradossali e forzati, perché così almeno si capisce meglio di quello che stiamo parlando. Prego, Iafrate. La crocetta sull'acconsento è già preimpostata. E sotto, cioè, ironicamente, c'è scritto barrare la voce che interessa prima di firmare. Ecco, ma se lei cercasse di togliere quella... Non si può fare, ho verificato successivamente, perché dico magari ho fatto un errore io, ho verificato successivamente, invece non si può fare perché il sito risponde che quel consenso è obbligatorio. Allora, andiamo alla sintesi, che è quella che è la sintesi poi giornalistica, vale a dire, nel momento in cui si stampa il contratto o nel momento in cui si cerca di togliere una voce automaticamente pre-spuntata dall'impresa, dalla società, in questo caso l'Lottomatica, non si ha la possibilità di farlo. Quindi il cliente non può scegliere se dare il proprio consenso o non dare il consenso. Esatto. Allora, a questo punto è doveroso sentire la controparte, che è rappresentata appunto dal dottor Bellocci, che è proprio il responsabile dei giochi, delle attività online di Lottomatica. Bellocci, allora, che cosa risponde a questa puntuale e precisa critica del vostro cliente? Allora, innanzitutto la critica è puntuale e precisa, quindi va bene, nel senso che quello che viene detto è corretto. Vorrei spiegare sul perché di alcuni di questi passaggi e quelli che sono invece poi le azioni che a seguito di questa segnalazione noi comunque prenderemo. Il perché innanzitutto è dovuto a un fatto: il tipo di servizio che qui viene trattato è il gioco. Il gioco per denaro ed il gioco soggetto alle concessioni di Stato. Questa cosa richiede un trattamento ed una necessità di conoscenza del giocatore particolarmente elevata e richiede, per la consegna di premi, per situazioni di conferma di identità dovute a vincite particolari e quant'altro, la necessità di avere dei contatti e delle situazioni di incontro che sono, come dire, dovute o richieste dall'insieme delle situazioni normative. Ciò detto, c'è una parte di questa iniziativa che era la parte legata alla raccolta punti, che è una cosa in più rispetto alle richieste normative che noi abbiamo montato come servizio ai nostri giocatori, quindi un sistema per cui restituisce dei vantaggi a fronte della partecipazione al gioco, che essendo sviluppata da un'azienda non direttamente controllata dal gruppo, noi abbiamo inserito nel pacchetto delle richieste che forniamo ai nostri giocatori e che viene somministrata, come dice giustamente il dottor Fabio Iafrati, in una modalità di tipo non selezionabile. Ciò detto, su questa parte e sull'insieme degli elementi a cui fa riferimento, oggettivamente si può passare ad una logica di non obbligatorietà, ne prendiamo atto come segnalazione corretta, e quello che faremo nella logica di evoluzione del sistema e della piattaforma che abbiamo è quello di tenere conto di questa cosa e di sviluppare un meccanismo che faccia questo tipo di esercizio. Mi pare abbastanza chiaro quello che lei ha detto, vale a dire quell'ulteriore consenso, quella possibilità di spuntare o meno, non è direttamente riconducibile all'Automatica, ma ad una società esterna che aggiunge qualcosa in più ai nostri clienti, vale a dire la raccolta punti, premi, non lo so, perché non gioco, quindi non ho la più pallida idea. Comunque, insomma, è un qualcosa in più. Iafrati, la convince questa spiegazione? Ma diciamo che probabilmente l'Automatica ha fatto un doubt test con questa società, nel senso che questa società poteva acquisire tutti i dati personali delle persone che giocavano, che hanno un valore, sappiamo che questi dati hanno un valore, e il compenso che andava all'Automatica, diciamo, per questo tipo di discorso era quello di dire: ok, io ti do un gadget in più che ti gestisce i punti. Non è bellissimo, in effetti. Ecco, ma allora io ripasso la parola ovviamente a Bellocci, dicendogli questo, anche aggiungendo: io davanti a me il contratto che si stipula con l'Automatica, e al punto 19, che è l'ultimo, trattamento dei dati, e in cui si dice: informativa, titolare del trattamento, diritti dell'interessato, consenso. Insomma, non è che sia poi chiarissimo quello che lei ci sta dicendo, tanto che è già prespuntato l'acconsentimento al trattamento dei dati. Che cosa dovrebbe fare? Uno dovrebbe cancellare con il biacchetto e mettere la X, allora, nell'altra casella? No, corretto. Innanzitutto la decisione della obbligatorietà è legata a un paio di considerazioni. La prima considerazione è che stiamo parlando di un'attività, di un servizio, di un prodotto di caratteristiche particolari, dove la persona che si iscrive non dipende nella vita personale dalla fruizione di questa cosa, come potrebbe essere un bene di primissima necessità. Quindi il trovarsi di fronte ad una situazione che dice: se non spunto questa cosa non procedo, non priva l'utente di un bene di prima necessità. Beh, sì, d'accordo, questo qui, vabbè, ci mancherebbe altro, la vita non è in gioco, insomma, diciamo. No, certo, la seconda osservazione è che passata, come dire, questo primo esercizio, quello che porta alla informativa obbligatoria, arrivano una serie di informazioni al giocatore nelle quali il giocatore ha la possibilità, cliccando esattamente come si fa su una mail con i link, su un aggancio, un rimando che consente di disiscriversi e di cancellare i propri dati da quelle che sono le raccolte punti e gli elementi che in qualche modo noi ritenevamo fossero e riteniamo, per quello che è l'esperienza che abbiamo vissuto, un elemento, come dire, in più. C'è tuttora la possibilità, nonostante l'obbligo che le dicevo inizialmente, al passaggio immediatamente successivo di uscire dal loop. Va bene, Bellocci, lei si è spiegato direi molto bene, così come molto bene ha evidenziato le pecche, le critiche, chiamiamole come vogliamo. Comunque ci fa piacere che un nostro radioascoltatore abbia portato chiarezza in questa delicata materia, perché a consentire o non a consentire, insomma, è questione di vita personale, dunque doveroso leggere e rifiutarsi anche di prestare il proprio consenso quando lo si ritiene. Grazie all'Automatica, dunque, grazie al nostro radioascoltatore Iafrate, in regia a Carmelo Lauricella e in studio a Antonella Migliaccio. E Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata.